vous êtes tous reconnus coupables et condamnés pour trafic de blues. In diretta dalla tana segreta, e tanto segreta che non l'abbiamo trovata da un pezzo. Di chi? Del bianconiglio? Del neroniglio. Cioè tu pensa, sono mesi, anni, mesi che non facciamo più, sì, anni nel senso che è cambiato un anno. Te l'ho detto una volta. E la prima cosa che sai dire è una cagata pazzesca. Vabbè, perché l'anno scorso com'è che l'avevamo finita? È quello per cui ci ascoltano. Anche quello è vero, sì. Siamo tornati. Più o meno, siamo tornati più o meno. Siamo tornati, siamo qui. Vi siamo qui, mancati. Siamo lì. Abbiamo un sacco di notizie stasera, ne abbiamo proprio fin sopra le orecchie. Con tutto il tempo che siamo stati via. Allora, voi volete sapere cosa è successo, che ne so, a ottobre? Ottobre, novembre. Dicembre, Natale. Dicembre, Natale, Capodanno. Avete mangiato? Mangiato. Basta. Mangiato. Gennaio, la Befana. Vien di notte. E adesso arriviamo noi. Siamo pronti. Allora, OpenCast. Siamo pronti e soprattutto... Allora, ve la siete cercata, eh? Ce la siamo cercata. Allora, OpenCast Alpha, siamo qui, software libero, progetti, cavolate, tutto quello che gira nel mondo open. Tipo, non so, dischi. No. Gira dischi. No. Va bene. Frullatore. Software distribuito su dischi di vinile. Esatto. Questa è un'idea che secondo me avrebbe successo. Ma anche no. Tra gli estimatori del vintage. Vabbè. Ma gira meglio, Gira un casino. Va bene, veniamo alle notizie così succose di stasera. Yeah. Allora, abbiamo un sacco di appuntamenti da darvi. Noi siamo tornati anche per farvi sapere che cosa vi state perdendo nel tempo, perché se non lo sapete, ve lo perdete. Quindi noi ve lo sappiamo, così non lo perdete più. Prego. Vi state perdendo il corso sulla riga di quando, organizzato da IFO in collaborazione col Gelcomo, via IRC, via chat online, in modo da permettere attuazione a tutte le parti d'Italia. No, spieghiamola, no? Perché uno dice, vabbè, che bravi quelli dell'IFO che organizzano in collaborazione. Ecco, quelli del GL sono quelli che si smazzano il casino più grosso. No, è in collaborazione. No. Allora, non è in collaborazione. Quelli dell'IFO hanno fatto la parte intellettuale di preparare la lezione. Cioè, che sei scemo. Sì, ma no, scusa, non puoi dire il contrario, però. No, sei qui a fare è vero, open è vero, cast, è vero, è vero, è vero. Però, lui che è grosso picchiava quelli che non stavano attenti. Ieri sera 60 persone che lì che se la ce n'era di gente. Ieri sera martedì. Peccato che ieri sera generico, vario ed eventuale. Okay. Che ne sai quando io sto ascoltando l'open cast? Adesso metti che sei un venerdì di ritorno dall'ufficio. Quindi, in treno. Ieri sera era giovedì, per esempio. Ok. Tutti o magari è sabato mattina e stai andando al mercato a comprare la verdura. Ieri sera era sempre giovedì. Era sempre giovedì. Comunque, non è questo il problema. Il problema è che c'erano 60 persone che seguivano questo corso interessantissimo. E che però, nel senso, ce n'erano di tutti i tipi. C'erano molti che seguivano e non dicevano nulla. Non dicevano nulla. Nulla. Non dicevano nulla e io ho detto, va bene, allora questi... perché stanno seguendo il corso, stanno facendo i compiti, sono bravi questi qui. Invece poi uno alla fine mi fa, e non sono riuscito a fare neanche un comando. Ma in che senso? No, ma perché mi dà errore. Io faccio, ma in che senso se ti dà errore? Prova a fare CD nome cartella. E no, mi dà errore. Ok, allora prova a fare CD spazio slash. E no, mi dà errore. Allora, non sei su un terminale. Lo stavo scrivendo su blocco note. Credo Gedit. Però non capisco perché. Non capisco perché dava errore. Dava errore. Non capisco. Vabbè. Va bene. Quindi, se volete fare dei corsi, noi facciamo il lavoro sporco. Sì. E comunque, arriviamo presto. Andiamo via presto. Non loviamo il bagno. Esatto. se voi che vi state perdendo il corso siete interessati, tutti i log del materiale viene pubblicato sul sito lifolab.org. Esatto, e troverete il link su www.gl-como.it insieme a tutti i link che vi daremo durante questo opencast. Cioè uno deve andare su gl-como.it per trovare il link www.lifolab.org. Ok, mi raccomando, non fatelo direttamente perché può esplodere il monitor. Perché noi diventiamo tristi. A delle persone è esploso il monitor. Ma poteva andare meglio. Potresti trovare il link per scaricare la puntata di Opencast dove c'è il link per scaricare l'altro link. Fico. Potresti andare su Google e scrivere Opencast. Da lì trovi una pagina di archive.org, come vuoi che chiamarlo. È dove sarà. Esatto. Da lì trovi ubicato. Il link al sito del GLComo. Lì trovi il link alla pagina di questa puntata di Opencast. E da lì trovi il link al sito dell'IFO dove trovi il link per scaricare i log. Che ripetiamo, è l'IFO. Lifolab.org. Perfetto. Esatto, metti che. Comunque non è che trovi solo questo di link su www.gl. Ce ne sono tantissimi di link. E ci sono anche le vecchie puntate di Opencast. Metti che non ti ricordi più cosa abbiamo detto 6 mesi fa. Metti e che. È passato di tempo. Per esempio. Allora, un'altra roba che vi state perdendo, e so che ve la state perdendo, è un piccolo eventucolo che si. Come si dice? Si terrà a inizio di febbraio. Lo fanno quindi apposta. L'1 e il 2 febbraio. Bastardi. A Bruxelles. Stiamo parlando del FOSDEM. Io non ho capito perché lo fanno sempre in quelle date che io non posso. Ma perché non vuoi? Perché se vuoi, puoi. Ma adesso mi licenzio. No, dovresti dire al lavoro che non puoi andare al lavoro in quei giorni perché c'è il più grande evento di open source software libero degli sviluppatori di software libero open source, sicuramente d'Europa. Sono proprio dei bastardi. Sì, ma non vogliono te, è quello il punto. Cioè. Perché lo sanno. Comunque pensa che tutti gli anni ci chiedono se quei giorni lì non puoi. Vabbè, ma scusa, l'uno chiamano. Che giorno è? Sabato. Allora, a ottobre mi ha mandato una mail e mi hanno detto: Davide può l'1 e il 2 di febbraio? E gli ho detto: guarda, no, va bene. E hanno fatto l'1 e il 2 di febbraio. Ma scusa, l'1 che giorno è? Sabato. Sabato e domenica. Si tiene domenica. Sempre di sabato e domenica. Vabbè, sì. Ma se trovo un volo per domenica. Va bene, ti aspettiamo? Sì. Va bene. Va bene, dicevamo l'1 e il 2 a Bruxelles. Ah, ma prepara la valigia, sì, presso parto. No, torno. Sì. Torno, ma... No, non è che non torno. Ho detto che torno. Non tornassi, torno. Vabbè, no, scusate. No, stavo facendo le cose mie, stavo organizzando un viaggio con dei miei amici immaginari, va bene? Va bene. E quindi dicevamo, un calendario pienissimo per questo FOSDEM, 2 giornate... con una quantità incredibile di sale fondamentalmente che hanno organizzato 23 sale diverse che lavorano in contemporanea. La cosa divertente sarà essere in contemporanea in 4 sale diverse e seguire 4 cose interessanti. Carina come cosa. Probabilmente sì, sì. Parte dei talk verranno ripresi e pubblicati come video, non quelli che a cui si è interessati noi. E che sono in sovrapposizione. Funziona sempre così. Per esempio l'inizio, la fine e la metà. No, la metà no. Ci saranno molti talk che parlano della situazione software libero su hardware con libero. Processori ARM. Ah, che è una cosa interessante. Che è una cosa. Sì. Perché il nostro buon Davide qui ha. Buongiorno. Ha un progettino. Sì. Il mio progetto è andare al FOSDEM. No, parlavamo di Linux e ARM. Ah, vabbè, ma... Raccontaci delle notti che hai passato insonne per compilare il kernel sulla... Allora, voi... No, prima cosa non erano notti perché lui... E non volevo proprio... Compilava così. Anche di giorno. Va bene, raccontaci delle giornate... E poi andava avanti le notti. Scusa. E poi ancora il giorno dopo. Scusa. Raccontaci delle giornate passate in ufficio a compilare il kernel. Per ah, ecco. Allora, non è facile. Non è facile. È facile. Diciamo che è una cosa un po' complicata. Complicare. Com'è che è, scusa? Cos'è? È una cosa un no, po'. Com'è con me? Non è facile. Complimenti a tutti i pianisti perché non è facile. Sì, ma io non suono il piano. Vabbè, però non è facile. Vabbè, comunque, il problema di queste schedine ARM principalmente è che non tutte, o almeno tutte quelle che io ho trovato e ho comprato, non sono supportate dal kernel ufficiale, ok? Sì. E le scegli apposta perché sì, mi piace, no, perché non esistono schede supportate pienamente, completamente funzionanti, che ti permettano di fare qualcosa che non sia scrivere un cavolo di file di testo. No, perché tecnicamente la scheda che stai usando è supportata dal kernel upstream, purché non si pretenda di usare un monitor, da video, niente stack USB, a meno che l'abbiano aggiunto nelle ultime settimane. 10 secondi. No, allora, la scheda di rete funziona. Vedi, è supportato dal kernel upstream. Peccato che le due schedine che ho, una, che è quella che non ha il monitor, ha la scheda di rete LAN. L'altra, che è il portatilino, ha solo la wireless. Quindi, e con la wireless funziona? No. Perché è su USB? Sì. Per cui, cioè, io mi accorgo che funziona la schedina, ma poi quando lo metto sull'altro, no. Sì. Vabbè, comunque, adesso diciamo le cose come stanno. Abbiamo preso un'altra schedina. Perché mancava. E questa, certo, è supportata dal kernel? No. No. Però quasi. Quasi. Allora, abbiamo fatto un ordine poco tempo fa dal sito della Olimex, che è quel sito dove ci sono tutte quelle cose che i nerd gli ci piacciono proprio, no? Mm-hmm. E vanno lì e passano le giornate a dire io comprerei bello, questo, bello, io comprerei quello. Poi quando arriva a casa dici no, no, c'è qualcosa che non va. Ma perché? Perché fuma? Perché? Perché attaccato alla 380 non funziona? Vabbè. E allora abbiamo preso questa schedina. Ne abbiamo prese un po'. Quante che ne abbiamo prese? 10, 5, 2, 8, più o meno. 23. 23. Con su un processore A20. Bello. All winner. Bello. E sul kernel inizia ad esserci il supporto per l'A13. Con calma. Nel senso, ma vanno 13, in ordine numerico? No, perché non c'è il 14, 15, 16, 17, 18, 19. Per cui può essere che il prossimo supporto che ci sarà sarà a 20. Beh, dai, io mi ricordo anni fa quando ancora facevo, quando c'era la lira, sì, e facevo girare sul mio computer la Mandrake. Ah, per cui c'era la lira. Mi venne regalata una scheda audio da parente che mi disse: quale vuoi, questa qua ti piace? Io andai sul sito dell'ALSA per vedere la compatibilità, per, certo, essere sicuro che tu eri già un bravo ragazzo. Ho scorretto la lista, scorto, fino a trovare il nome in questione e ho detto: ah sì sì, guarda, è tutto supportato, benissimo benissimo, evviva. Mi arrivò, la installai, non funzionò un cavolo. Perché? Perché, scusa, avevo guardato il nome, poi spostandomi da sinistra verso destra nel monitor per vedere, sono salito di una riga. Andando a guardare bene la scheda che mi ha regalato era: non l'abbiamo mai neanche vista fisicamente come fatta. Ok, però l'aggiornamento dopo del kernel funzionò. Vedi? Perfettamente. E quindi noi siamo fiduciosi. Comunque, questa bella schedina ha un all winner A20, dual core, da 1 giga, 1 giga di RAM, uscita HDMI, VGA, LCD. E questa cosa è una cosa strana, perché è un'uscita LCD tutta sua, per cui devi comprare i monitor loro. Beh, che hanno il convertitore LCD LVDS. Ok? Non mi sembra molto strana come cosa. Speravo di riuscire a farlo io. E invece no. No, e invece no. È una vita dura, una vita dura. Vabbè, però anche l'attacco dalla batteria e tutto il resto, e sta compilando. Kernel 3.4 per funziona. Ora. Sì. 3.4. La cosa divertente è che per questa scheda esiste un progetto su Xi che mantiene un kernel col supporto per queste schede che funziona abbastanza bene. In più sta facendo il lavoro per portare questo supporto nel kernel upstream un pezzo per volta. Il kernel su Xi funziona, compila, sì, con pochi problemi, senza impiegare giornate, cross compila su un PC. No, io, e noi l'abbiamo vista funzionare. Io posso confermare. Io una sola. Scusa. No, no, fai scusa, pure. Scusa. Su cos'è che è sto kernel? Che su, che? Sul ci, sul si, sul si, cioè, ce l'hai presente il ciao, Piaggio, ciao, sul si, sì. Mizzega, cioè veramente, poi uno dice, però va che è faticoso fare, quando devi far partire la compilazione devi andare di manetta, no, piede. Pedivella, pedivella volevo dire, no, no, no, lì hai i pedali, sì, avevi i pedali, cioè, avevi i pedali, sun chi, ah, sun chi, ah, mica lì, dov'è il kernel per la 20? Sul chi. Beh, comunque va bene, a proposito di schedine, cioè, allora, così è rossa la divertente, posso dire è puoi dirlo. È arrivata giusto oggi cacchio ti è arrivata la schedina, non a me, ah, qui ai nostri ospiti, no, a me non è arrivata, no, ridiamo di questo, arriverà. Tranquillo, ho pagato il postino. Comunque è arrivata ai nostri ospiti qui oggi stasera in studio l'espruino, esatto, un pacchettino da un progettino su Kickstarter, quindi è una schedina con un processore Atmega più potente di quelli degli Arduino, su cui gira un interprete JavaScript, quindi è una specie di Arduino che però viene programmato in JavaScript. L'abbiamo vista, è molto bella perché è grande più o meno come il touchpad qua del mio computer, sarà sì, un 2 cm per 4 più o sì. meno. E arriva con un modulo Bluetooth bello che è tipo mezzo centimetro per 2 da saldare sulla scheda. Scusa? Con una ventina di pin. Sì. Ma non ha neanche i pin, cioè i buchi. Ma in che senso? Adesso non ho ancora capito come andrà saldata. Cioè, ha degli attacchi grossi. No. È un chip Bluetooth SMD da saldare sulla scheda. Perché la scheda veniva venduta con chip diversi, chip correlati diversi. Si poteva avere col Bluetooth, GPS, credo ci sia una versione con Wi-Fi, e tasti. Noi abbiamo preso quella Bluetooth. Bravissimo. E quindi devi saldarti tu la parte aggiuntiva. La cosa buona è che funziona anche senza la parte Bluetooth, ah, no, per cui infatti si può cominciare a testarla. Okay, ci vuole una micro USB, una micro SD. Poi ci vuole un micro computer con delle micro ditina per fare dei micro programmi da mettere sulla micro schedina. In JavaScript. E non deve essere brutta. No, ad eventi. È molto ad eventi il. Ad eventi. Cioè. Ad eventi, questa sera! Esatto, in diretta! Va bene. No, sul sito ci sono dei video di progettini interessanti che fanno vedere la programmazione. Ma con persone che hanno saldato la schedina. E secondo me se la sono fatta saldare. Okay. E poi oltre al chip Bluetooth ci sono i connettori, quelli a standard per i pin. Da hobbista. Cioè, c'è, sono i buchi, c'è un non mio è amico. Che sono, cioè c'è proprio il buco da. C'è un mio saldare. Amico che salda. Se vuoi, te lo presento. Io non mi fido. C'è un mio amico. Un amico tuo. Lui salda. Vabbè. Io te lo presento. Scusa, ma quanto? Salta tanto, ok. Va bene, giunti a questo punto, direi di fare una piccola pausa musicale. Vi proponiamo un brano che non è la prima volta che vi proponiamo, ma siccome ci piace, abbiamo deciso di proporvelo ancora. E che è open. È open, ovviamente, come tutti i brani, come il brano che abbiamo sentito in apertura dei Traffic the Blues. Anche questo è un brano che abbiamo già messo in vecchie edizioni. Speriamo che dica qualcosa di più del primo brano. Perché... Fidati. Meno male che c'eravamo noi che parlavamo sopra. Beh, non so se questo. Va bene, loro sono gli Hot Fiction e il brano è When Nothing Mattered. Che bello. Ti piace la cosa? Sì, mi piace. Allora, faccio un brano che non mi ricordo un accordo di questa canzone. Ok, l'ho trovato, era un si bemolle. Get out on the highway. Give yourself a chance to keep on moving on. Get me wrong. No. Beat out a pathway. Beat yourself up to keep on moving on. No one fires but one inside. Let me take you to a time when nothing mattered. Out of the swaths of the crime when nothing mattered. semifreddi. Anche io ascolto Opencast Alfa. Anche Rocco Semifreddi No, erano Yacht Fiction, Yacht... amici e amici di Rocco Semifreddi e di Rocco Semifreddi, gli Hot Fiction, ovviamente. Va bene, andiamo avanti con la nostra carrellata di notizie qui a Opencast Alpha. Notizie, notizie. Un podcast a basso contenuto di serietà. No, pensavo grassi idrogenati. Anche. Abbiamo mangiato grassi idrogenati stasera? No. Quindi a basso contenuto. Però chi di noi andrà a Fosdem assumerà molti grassi. Va bene, quello io non è un problema. Io li odio tutti. Poi faremo un reportage post Fosdem. Tipo sulla qualità delle patatine fritte. Esatto. Vabbè, io non vengo. Adesso mi trovo degli amici che non possono andare al Fosdem e esco con loro. Vabbè, che carattere che hai. E vabbè, allora. Vuoi venire alla Blender Conference? Quando è? A settembre. E sono in... da quando? E anch'io non posso andare. Però forse vado. Vabbè. Bastardo. Se no questo weekend c'è una mini DevConf a Parigi. Credo. Posso andare? Vai. Vado. Ciao. Vabbè, parliamo di cose serie invece. Dai. L'open source come si relaziona con la pubblica amministrazione, o meglio, come la pubblica amministrazione cerca di non far usare l'open source. Sai qualcosa? Di far usare, non di non far usare. Cioè, scusami, eh. Allora, no, la, aspetta, aspetta. La legge cerca la di legge far usare, c'è. La pubblica amministrazione cerca di non usare. Usa. Okay. Allora, aspetta, Tranquillo, sono state pubblicate, approvate il 6 dicembre, delle linee guida e dei criteri su come comparare e scegliere fondamente il software tra open source e software proprio. Ricordiamo esattamente quello che era successo. Allora, c'è stata una legge. C'è stata, prima o poi. Passata, c'è stata. Poi e c'è stata. È andata, bene, okay. L'ha fatta. Comunque, c'è una legge che dice: era grande abbastanza. Tu, pubblica amministrazione, se domani mattina ti dovesse capitare di dover scegliere fra due software, dovresti scegliere A e B. Due software A e B. A e B. Dovresti scegliere quello open. A. A. Se A è open. Ah, ok. Se invece B è open, dovresti scegliere B. B. Ma la pubblica amministrazione ha iniziato a dire: vabbè, però io, sai, come faccio a capire? Dovresti se valutare mio, che poi link, sai com'è. Vedi che bella icona che ha questo. Come è messo veramente questo? Vedi che bella icona che ha questa, invece quella lì no. Poi mentre in tasca di soldi. Di nascosto. Scusa. Tutto gli devo spiegare. Quindi, tutto. Che cosa succede? L'Agenzia per l'Italia Digitale, perché esiste l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Agenzia per l'Italia Digitale. Esatto. L'Agenzia per l'Italia Digitale. Yeah. Ha pubblicato le linee guida per comparare il software open e il software proprietario. E come la pubblicate? Ha fatto 70 pagine, ha fatto una copia, ha detto passatevela. Ma scusami, sono 70 pagine in un documento doc? No, l'ha proprio fatta a macchina. Essendo l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'ha fatta a macchina. Però è interessante come domanda. Dopo andiamo a cercare come questa cosa. Comunque il documento spero dovrebbe... di no. Il documento dovrebbe aiutare le pubbliche amministrazioni per dare priorità ai software liberi. Ma scusa, 70 pagine? 70 pagine, ma perché parla di tutti gli aspetti, sia legali che di carattere economico, che di carattere tecnico, che di carattere 10, 20, 30. Ah, ecco! Esatto. 30, beh, il carattere 30, 70 pagine ci escono facilmente. Sì, no, io pensavo invece, no, 70 pagine possono farsi. Esattamente. So, l'alfabeto, i numeri fino a 10, lo ripeti 6 volte, sei a 70. Sì. Comunque ha partecipato al... ci ho fatto la tesina gruppo, così io. Al gruppo, carattere 30. 30. Pensa, io facevo 30. I temi su mezza facciata. Carattere 30. No, la mano. Sulla pagina 6 il foglio di protocollo tirato a metà. Sì, esatto, conosco. Però solo la prima facciata. La prima facciata. Perché sul resto però così sembrava di più. Poi arrivava e girava pagina e diceva: ma finisce qui. Sure, non c'ho niente da dire. Cioè, basta. Non è che posso fare come. Andiamo al succo. Come si chiama la società? Cioè, non sono l'amministrazione, mica, per esempio. Come si chiama? Agid. Ah, non Ali. L'agenzia per l'Italia. Non per l'Italia. Agenzia. Agg, capito. Dicevo che ha partecipato nel gruppo di lavoro che ha steso queste linee guida in rappresentanza del progetto Debian anche Stefano Zacchiroli. C'era Nino, Franco. No, Stefano. Ignazio. Stefano Zacchiroli, di cui abbiamo parlato in una puntata precedente. Perché aveva scritto altre 70 pagine. Era il project leader di Debian fino all'anno scorso. Esattamente. Vabbè, ci sarà un motivo. Cioè, si è preso un anno sabbatico per scrivere per fare 70 pagine. Vabbè, comunque, pubblica amministrazione, se volete, pensate. Non costa. Potete avere un'assistenza veramente su quello che a voi serve. E non è male. Comunque in PDF, se ti interessa. Aia. Circolare 6 dicembre 2013, numero 63. Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'articolo 68 del DLG su 7 marzo 2005, numero 82, codice dell'amministrazione digitale. Vuoi provare a vedere, per esempio, come hanno creato questo PDF? Fasi. Io lascerei un pezzo da un View, file, non c'è. Nel visualizzatore documenti da di... proprietà non si vede nulla. Da dove? File proprietà. Ah sì, non avevo visto. Allora, producer Microsoft Office Word 2007. Creator Microsoft Office Word 2007. Ma che vergogna. Che vergogna. Tremendo. Per favore, possiamo scrivergli una mail? Voi uomini e donne che ascoltate l'Opencast, in questo momento vi dovreste incazzare. Non per altro. C'era questo qui che lavorava per Debian e hanno scritto 70 pagine con Office. Ma mica le ha scritte lui che... Vabbè. Ma perché? E perché usano quello da tanto tempo? Ormai sono abituati. La segretaria aveva quello. Ma è il 2007? Beh, ma non è che... Ti sposta l'icona del salva, non sai più salvare il documento. È un casino se non salvi più il documento. È vero, è vero. Poi sai cosa? Queste icone che cambiando di colore uno non è che poi le riesce più a ritrovare. Poi hanno questi nomi che non è che ti aiutano. Non so, per esempio, calc. Calc. Che cacchio vuol serve dire? Serve per calc? I reni. Infatti. Esattamente. Cioè, capisci che un medico è più portato a... Ma un pubblico amministratore, capisci? Scillipoti lo può usare, perché è lui il medico. Esatto, oppure chi lo può usare? Un nerd. Scillipoti l'ho già detto. È nerd. Non lo so. Vabbè. Comunque, a proposito di nerd. No, questa notizia non la possiamo. Ma girando su internet. No, allora. Guarda, abbiamo trovato un bellissimo articolo da un durante, secondo me serissimo. Durante la... Scusa, che sito? Non posso dirlo. Comunque trovate il link. Allora, durante la... Certo. Sul sito dell'IFO lo mettiamo. Allora, durante la redazione... La fase redazionale. Che abbiamo fatto sei giorni. Sono sei giorni che almeno siamo due settimane qua dentro. Due settimane che siamo chiusi qua dentro a mangiare pasta col tonno. Esatto, la scaletta facciamo. Esatto, e abbiamo scelto e questa canzone bellissima. Esatto. Allora, cos'è che abbiamo trovato? Abbiamo trovato questo interessantissimo articolo di questo sito serissimo, oltreuomo.com, ok? Dal titolo 10 motivi per fidanzarsi con un nerd. Che già qui uno per dice... cui. E questo l'abbiamo trovato quando ci sono rimaste solo due lattine di tonno. Esatto. Cioè. Quindi, cari maschietti all'ascolto, cari nerd, vi diamo adesso lettura rapida dei 10 motivi per cui la vostra bella dovrebbe fidanzarsi con voi. Ho capito, ma vedi che sei razzista. Ci sono appena anche... trovo oltredonna.com che pubblica i 10 motivi per fidanzarsi con una nerd. Ho capito, ma può essere anche un fidanzato del nerd. Ah, va bene, no, ok. Perché se, la vostra bella nel senso di persona, va bene? Ah, ecco. Okay. Primo. Non sistema operativo, quindi bella. No. Ok. Primo motivo. Sono più ricchi. Chi? I nerd. Rispetto a... in generale dice che sono la categoria economicamente più stabile. Se gli va bene diventano degli ingegneri capi di Google, se gli va male inventano Twitter. Non lo so, non comunque, sono sicuro. C'è un'imprecisione, in quel caso non si chiamano nerd, si chiamano eccentrici. Eccentrici, giusto, se sono ricchi sono... Bravo, bravo, e già qui secondo me è un po'. Due, sono più talentuosi. Ok? Beh, hanno talento. Hanno talento, sì, perché mentre gli adolescenti normali trascorrevano i pomeriggi a copulare con le femmine, i nerd lo passavano giocando ai videogame, sviluppando appunto queste capacità. Cioè, capacità di muovere i tasti, quelle cose lì. Esatto. Neanche i nerd, quelli che passavano il pomeriggio programmando, passavano giocando. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma sai, poi durante le pause tra un livello e l'altro, hanno letto molto, hanno imparato a suonare uno strumento, hanno dipinto, scolpito, studiato la termodinamica e fatto un sacco di cose. Scolpito, studiando la termodinamica. Certo, perché sai, ogni colpo non è facile. Una turbina. Numero 3, sono sensibili. Questo però bisogna dire che bisogna trattarli con attenzione. Coi guanti. Sono sensibili. Numero 4, non sono violenti. Però qui anche qui ci sono dei dibattiti. Allora, nel senso, noi conosciamo alcune persone che però comunque vabbè. C'è da dire che comunque mediamente effettivamente la fisicità non è che viene sviluppata proprio. Perché al massimo hanno i pollici abbastanza potenti. Ma sì, ma se cercano di stangolarti quei pollici è difficile, nel senso. Ma parliamo del famoso numero 5, che secondo me dovrebbe stare al top della classifica. Ma come mai non l'hanno messo? Quale non classifica? Si capisce di questa classifica. Numero 5, la potenza sessuale. Signore e signori, la potenza sessuale. Ma cosa cacchio è? Adesso vi leggerei esattamente la descrizione, ma penso che potete farlo da voi. Comunque dice che l'energia libidica accumulata pronta ad esplodere va bene. Fedeltà, ok. Esploso un nerd, hai sentito? Vibrazione, non è un terremoto, è un nerd che è esploso. Al numero 6 fedeltà. Beh, che, dove cazzo va? Cioè nel senso diciamo che esattamente quello che dice qua è scritto in un'altra maniera. Numero 7, vi fa sentire giovani. Ma perché? Perché l'uomo, come dice qua, cioè, l'uomo comune passa le giornate a parlare di calcio e di finanziamenti convenienti per l'acquisto dell'auto nuova. Un nerd invece fa riscoprire la passione per i fumetti, per i videogame e per i Lego. A questo proposito ho visto Geisha al cinema il film dei Lego e io non ho ancora visto il trailer. Però abbiamo uno informato sui fatti. Devo dire che è abbastanza notevole. È notevole. Per la serie ci si scompiscia dalle risate. Il trailer. Quindi si spera che è un'animazione 3D, quindi animazione 3D, io speravo fatto con Lego. Io speravo stop motion anch'io, ho avuto un attimo di, poi ho detto no, sarà 3D. Temo che sia un po' troppo anni 80 lo stop motion. Beh, però insomma, vorrei solo portare l'attenzione a Wallace and Gromit che ha fatto i film interamente decisamente. Però vabbè, sarebbe stato bello. Se questo ha successo, andrei a proporre agli studios. Scusa, temo un attimo. Che in stop motion avrebbero potuto dare un po' troppo. I personaggi sarebbero stati un po' troppo statici, quelli dei Lego. Poi gli toccava fare gli omini del Lego in plastilina. Non va bene. Ma no, fai tutte le faccine con le varie versioni. No? Pure stop motion. Così che si fa. Attenzione, punto 8 dei 10 motivi per fidanzarsi con un nerd. Che il nerd vi rispetta. Sì, va bene. Perché ha paura di voi. Nel senso che voi. Se non la picchiate. Sì, perché ha paura di voi. Dice che un nerd che è stato abituato per molti anni a sopprimere gli impulsi sessuali deviandoli verso i giochi, ok, quando capita di non aver voglia, non serve tirar fuori la scusa del solito mal di testa, ma basterà dire che non vi va e che forse è meglio che si goda una partitina a StarCraft. Vedi. E via. Però ti dà anche delle opzioni. E il vostro fidanzato nerd non sarà mai stato così contento di andare in bianco. Scusa, se gli proponi StarCraft nel 2014. StarCraft 2. Oppure vai da tua mamma. Numero 9, vi trova sempre bellissima. Sei bellissima. Così. Numero 10, sono dei perfetti potenziali papà. Ma, a proposito dei Lego di prima. Ma scusami un attimo, nel senso, tu daresti mai un bambino a un nerd? Ma se lo fanno di loro, io non è che posso togliere. Ho capito, cioè. Ma ci sono gli, non so. Ma soprattutto sto povero bambino che riceverà trenini, Lego, e non ci potrà meccano mai giocare. E... esatto. Cioè, ci sono gli assistenti sociali per portar via i bambini e i genitori nerd. Non lo sai? C'è proprio un ramo apposta, eh. Un ramo apposta. Sì, assistenti sociali contro la proliferazione dei nerd. Si chiama così. Come si chiama? Assistenti sociali contro la proliferazione dei nerd. Hai capito? Va bene, volevo vedere se riusciva a dirlo due volte tu stesso. Sto per svenire. Manca lo sì. Tira il fiato. Vabbè, comunque, a proposito di Lego, io volevo dire una cosa. Hanno fatto una macchinina completamente in Lego. Ma quando dico macchinina, intendo una macchina che raggiunge i 20-30 km all'ora. Ma una macchina a due posti. E quella col motore di Lego? Sì, bellissimo. Quella completamente fatta di Lego. Esatto. E ha un motore che funziona ad aria pneumatica, esatto, ad aria compressa, con 250-260 cilindri. Tu li vedi che si muovono. Tic, tic, tic, tic, tic. E sai come sei elegante? Che si muovono? No, con 250 cilindri. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Ma sai che bello che deve essere? È veramente bellissima. E anche il volante in Lego. Beh, no, ma è tutta completa. Tranne forse il pianale. No, i copertoni. No, no, no, no. Anche no. Il pianale? Sì, tutto in Lego. Solo i copertoni sono in. E beh, lì sarebbe stato difficile. Copertone. È interessante i sedili in Lego. Sì, sì, sì. Tutto sì. In Lego. Ma anche il volante, devi vedere. Troppo figo. Ma la guidano degli umani o no, degli un umani, personaggio dei personaggi di Lego gigante? Degli sì. Umani fatti di Lego. Di Lego. E la cosa bella, fai 20-30 km all'ora. Fatti, drogati. Fatti, no pugnette. Comunque, la cosa bella è 20-30 km all'ora. Immagina che fila dietro. Tutti che ti superano e tu gli tiri pezzi dei Lego. E tu suoni il clacson di Lego. No, perché se suoni fa così. Il rumore più o meno è questo. No, il problema è che se tu suoni il clacson usa l'aria compressa, quindi va più piano. Sistema. Ah, ma non ha la pompetta, no. Beh, no, cacchio, non so, perché lì c'era un attacco per attaccare il compressore. Non credo. C'è che... una pinza di Lego che schiaccia la pompetta. È interessante. Che figo, eh? Molto bello, molto molto bello. Noi ne vogliamo una, ma purtroppo non ce la possiamo permettere. Se volete partecipare all'acquisto del gruppo Linux di Como, di una macchina interamente di Lego. Ma potremmo farla anche in altri prodotti. In cioccolata. In cioccolata, in barre di cioccolata. In barre di cioccolata. In Svizzera la fanno. In Svizzera. Va bene. In Svizzera la faranno con la Geomag. Esatto. Sì. Brava. Ma torniamo a noi. Abbiamo altre notizie interessanti da dare? Beh, qualcosa di più interessante di quello che abbiamo appena detto. Vogliamo cambiare completamente discorso? Vogliamo parlare di software proprietario? Vogliamo mettere un brano? Ah no. Vogliamo far sentire della buona musica? Vogliamo chiuderla qui? Ma perché dobbiamo chiuderla? Va bene, qui? Allora andiamo a quello che tutti quanti stavano aspettando e certo. Che saranno sei mesi che ci hanno aspettato tutto sto tempo. Esatto, e adesso finalmente potranno dire anche noi riascoltiamo l'angolo di DistroWatch. Così andiamo, dai. Abbiamo già fatto tanto, abbiamo già detto troppo. Vuoi chiudere qua? Sì, dai. Perché non ma vuoi... Ma che punto è arrivata Gentoo su DistroWatch? No, no, parliamone. Perché li hai invitati? Io ti avevo detto, stavamo così bene, io e te. Qui era il calduccio. È sempre la solita gente, giusto per cambiare. E ho capito, ma proprio questi. Allora, partiamo dal decimo posto su DistroWatch. Questa settimana... Al decimo posto, attenzione attenzione, Pappy Linux. Il silenzio. E vabbè, cosa devono dire quando dici bow, Pappy? Bow. Pappy. La famosa distribuzione leggera per computer poco potenti che però hanno voglia di fare cose che anche i computer più potenti sono in grado di fare. Tipo aprire una finestra. Aprire una finestra, bravo. Esatto. Al nono posto della classifica di DistroWatch. Sto aprendo la finestra. Ho capito, ma se è un computer vecchio ci vuole il suo tempo. È lento. Allora, al nono posto in salita, Arc Linux. E che cacchio. Okay. Così, sta al nono posto. Sì, all'ottavo posto stabile in classifica, Mangiaro. Dieci minuti fa, Mangiaro. Poi vado Dormero. Dormero. Svegliero. Colazionero. Rimangiero, eccetera, eccetera. Mangiare davanti alla mia distribuzione. Esatto. Ma che ne sai, non siamo ancora arrivati in cima. Magari al primo posto. Magari. Al settimo posto in calo PC Linux OS. Vabbè. una distribuzione che sinceramente non abbiamo mai provato. E ci sarà un motivo. No, però è interessante, è una distribuzione così. No, KDE, questa l'ho usata. KDE, l'hai usata anche questa? No, con KDE no, non l'ho usata. Non l'ho usata. Vabbè, però c'è anche con LXDE o con Mate. Sì. Va bene, al sesto posto in salita OpenSUSE. Vai, che ce la fai. Al quinto posto, sempre in salita, Fedora. Ho capito, ma tutti che salgono è solo una che scende. Al quarto posto in salita, Mageia. Il ritorno della famosa Mandrake di cui si parlava. Infatti. Esatto. Al terzo posto in salita, Ubuntu. C'è ancora. Al secondo posto, tutto gli devo dire. Mi sono distratto un attimo. Al secondo posto in salita, signori e signori, Debian. Al secondo posto questa cosa? Debian. Il sistema operativo universale prima o poi conquisterà tutti il mondo. E attenzione, al Qual primo posto questa settimana su DistroWatch, stacchetto. Lo staccato è venuto un po' così. Ha staccato il cavo e ha attaccato il cavo. Al primo posto c'è Gentoo. Ragazzi, buona serata. Ci vediamo alla prossima puntata. Al primo posto c'è Mint. Però è in discesa. Visto? Perché c'è Gentoo. Perché c'è Debian che è in salita. C'è Gentoo che spinge. È per quello? Sì. Vabbè. E al 30? E c'è Mint che dice: allora l'iPhone, basta spingere. Allora, adesso andiamo a cercare Gentoo. Come al solito andiamo. Allora, comunque, sì, no. 12 FreeBSD. Vabbè, un po' più in giù. Zorin al 15. No, non gli piace. Okay. Quindi è sceso. Body Linux no, al 21. No, è sceso un attimo. Okay. Perché al 19 è la Slackware. No. Ha detto, vabbè, Slackware. La Slackware. No, quanto tempo? Sto un po' più in giù. Anthergos alla 32. No, c'è un amico. Peppermint. No, è vicino a un amico. CBSD al 34. No. Ecco. Gentoo, 37esimo posto. Visto. Sei davanti a Knoppix. Visto. Cioè, per dire, sta salendo o scendendo? Sta salendo. Sale. Donna. Sale, sarà salito almeno di un mezzo punto. Almeno. Per dire. Vabbè, va bene. Comunque, abbiamo trasmesso la famosa classifica di DistroWatch. Perché mi guardi così? Perché io non vengo più, ho deciso. Vado a giocare al tombolo. Perché? Perché non mi piacete più. Proprio, non vi ascolto. Sei cattivo. Ho deciso, basta, non vi ascolto più. Va bene, allora chiudiamo qui. Finito? Dai. Hai altro da dire? No. Allora salutiamo. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Però Davide è cattivo. No, la palla è mia e non gioco più. Va bene, dai. Vabbè, allora parliamo di cose serie. No, stavamo chiudendo. Ah, vuoi parlare di cose serie? Sì, parliamo di cose serie. Dimmi. Allora, partecipate alla raccolta fondi per mandare la squadra di Bob giamaicano alle Olimpiadi di Mosca. Non c'entra con software libero. Scusa, mi distratto. Allora, non so se lo sapete, se non lo sapete, sapevatelo. Il GL Como ha cambiato l'oculo dove si ritrova. Esatto, non è più il terzo a partire dalla signora Bianchi. Esatto, ma è il quarto a partire dalla Gianna Rossi. Esatto, è quello con fuori fiori finti. Non è questo che dovevamo dire. Dovevamo dire che non ci troviamo più in sala Noseda. Ebbene sì, signori e signori. Dopo anni e anni di utilizzo in modo inappropriato della sala Noseda. No, non è vero, non dire così. Della gentilmente offerta dalla CGL, adesso ci siamo quasi, come dire, siamo ufficiali proprio. Siamo quasi ufficiali, ebbene abbiamo sì. Il comune di Como gentilmente ci ha dato in uso una sala della circoscrizione 6 che noi usiamo allegramente per fare le nostre riunioni. Sì. Venite. Quindi seguite attentamente il sito www.gl-como.it che a breve cominceremo con qualche interessante iniziativa. Adesso che abbiamo una sede stabile, vai di corsi e vado di corsa. Attentati. Abbiamo già programmi molto interessanti, ovviamente ancora segreti. Chiaro, sono tutti programmi segreti. Sì. Per esempio, il gelato. No, quello presto, ne parliamo poi dopo. Tra di noi. Ah, teniamo un talk sul gelato libero. Esatto. Sì, ma mi buono, piace. Mica con le schifezze. Cioè, buono. Ovvio, deve esserci la ricetta per farlo. Ciascuno può migliorare la ricetta, passare la ricetta al prossimo, modificarla. Però devi dire che la prima versione era stata fatta da Mimmo. Va bene, direi che lo diremo, ma diciamo anche che siamo arrivati veramente in chiusura a questo punto. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che vedremo di farla entro tempi brevi. Diciamo prima che un paio di settimane. Quest'anno. Prima della fine di Zuzzurellone. Esattamente, prova a dirlo. No, mi spiace. Cacca. Va bene. Ci sentiamo prossimamente, noi vi salutiamo, vi lasciamo con l'ultimo brano open, anche questo rintracciabile sull'internet e scaricabile. Lei è Leslie Hunt, anche lei una bella topa. No, volevo dire che è già passata. Avevo capito bella topa. Comunque bella topa. See I Provide. Sì. Ciao Ne. Ciao. I Provide. Ciao. Ciao. Allora ve la siete cercata, eh? My water is wrapped around your every move. You don't see. My eyes glaze away. Ciao, sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Opencast Alpha. Mm.